Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Vi dico subito che quella di oggi è una puntata che mi aspetto raccolga tantissime testimonianze da parte vostra e tante telefonate. Magari non se lo augurano invece gli ospiti che abbiamo chiamato ad animare la nostra trasmissione. Allora, andiamo per ordine. Quali sono le peggiori avventure che possono capitarci a Ferragosto? Che l'impianto elettrico salti, che il tubo della lavatrice cominci a perdere, che si rompa il condizionatore con 38 gradi di temperatura, che i ladri tentino di scassinare la porta, oppure che ci serva improvvisamente un meccanico. Anche questa è, insomma, l'estate per molti malcapitati, situazioni che se capitano in mezzo ad una qualsiasi settimana di ottobre o maggio possono essere risolte rapidamente chiamando l'idraulico, l'elettricista o il fabbro di fiducia e aggiustiamo quello che va aggiustato a prezzo equo. Ma nel mese di agosto, quando ci si trova in una situazione di difficoltà in casa, può capitarci di non trovare le persone a cui solitamente ci rivolgiamo, perché sono giustamente in ferie anche loro. Così ci mettiamo alla ricerca un po' alla disperata e casuale di un sostituto e, oltre al fastidio dovuto all'inconveniente, corriamo anche il rischio di affidarci a persone sbagliate e di trovarci di fronte alla richiesta per il servizio reso di tariffe da capogiro e a volte anche a lavori di scarsa qualità. Allora, come ci difendiamo da tutto questo in piena estate? Stamattina, peraltro, a Soldi e Dintorni abbiamo parlato di disavventure di altro tipo nelle quali si possono imbattere soprattutto gli anziani in questo periodo, e queste sono ad esempio le categorie più a rischio, ma insomma anche a noi che riteniamo di essere magari più attenti e meno sprovveduti possono capitare situazioni di questo genere. Allora, noi stamattina abbiamo chiamato le due principali organizzazioni di categoria a darci qualche indicazione su come comportarci se chiamiamo quello che riteniamo essere un professionista, risolverci il danno di stagione, il danno di Ferragosto, se questo ci chiede una cifra improponibile, magari non ci fa neanche un buon lavoro, insomma come dobbiamo comportarci? Chiaramente, siccome prevenire è sempre meglio che curare, so già che qualcuno degli esperti che abbiamo chiamato questa mattina vuole puntare soprattutto sulla prevenzione, partiamo con l'estate attrezzati anche dei numeri di telefono giusti per eventualmente trovare subito il rimedio adatto e la persona giusta a risolverci il problema. Però insomma poi ci sono tante altre situazioni. Allora, noi stamattina abbiamo chiamato Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato. Falco, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Il nostro uomo generalmente delle caldaie, forse a volte lo abbiamo disturbato anche per i condizionatori. Falco, bentornato, e poi saluto anche e ringrazio per essere con noi, perché l'anno scorso sicuramente lo abbiamo reinterpellato in questo periodo per la medesima questione, Lorenzo Tagliavanti, direttore della CNA di Roma, la Confederazione dell'Artigianato e della piccola impresa. Tagliavanti, buongiorno. Buongiorno. E bentornato a Salva Danaio anche. Grazie. A lei. Soprattutto, peraltro io stamattina mi sono fatta un giro su internet per capire se, oltre all'iniziativa di Roma, la vostra è quella proprio dei cosiddetti artigiani aperti ad agosto, ci fossero anche altre iniziative simili. Ho visto che Confartigianato praticamente ne organizza anche per quello che riguarda i propri associati su tutto il territorio, ne ho trovate tante, per cui prima indicazione, prima di partire a fare una qualsiasi telefonata, aprendo le pagine bianco, le pagine giallo, cercando su internet, magari cerchiamo sui siti delle organizzazioni e cerchiamo di capire se nella nostra città, nella nostra provincia sono state organizzate iniziative ad hoc. Ma su questi dettagli entreremo tra poco. Prima di tutto la borsa, che oggi era partita di nuovo piuttosto bene. Evidentemente è stato toccato qualche livello tecnico cruciale, per cui adesso c'è una marcia indietro di tutti i listini e partono le consuete prese di beneficio dopo i rialzi abbastanza consistenti degli ultimi due giorni. Parigi meno 0,03%, Francoforte meno 0,57%, Londra meno 0,42%, Milano meno 0,26% sul FTSE MIB. Stanno correndo ancora in tutta Europa i titoli bancari, a Milano soprattutto gli assicurativi, Fondiaria più 3 punti, Telecom più 2,46%, Monte dei Paschi più 2%, Unipol più 1,49%, STM più 0,96%. Ansaldo, dopo il crollo di ieri, anche oggi perde 2,5 punti. Il gruppo ha rivisto i target del 2010 ed evidentemente sono target che non hanno colto le attese di mercato. Autogrill perde 2 punti, Parmalat meno 1,56%, Mediaset meno 1,48%. L'euro sul dollaro stabile intorno a quota 1,30, adesso un pochino indietro, 1,29,90. 43, ma insomma sembra volersi consolidare su questa soglia. Stasera molti dati dagli Stati Uniti, soprattutto il Beige Book, il rapporto periodico della Banca Centrale Americana alle 20, ora italiana. Lasciamo la borsa, andiamo alle disavventure domestiche d'agosto. Stare chiusi fuori di casa perché si blocca la serratura, un rubinetto che perde o il condizionatore che fa i capricci. Sono piccoli incidenti di ordinaria amministrazione che possono però diventare veri problemi se accadono in periodi di vacanza, magari ad agosto quando le città si svuotano e trovare un idraulico, un fabbro o un elettrauto è sempre più difficile, soprattutto se a buon mercato. È l'estate, infatti, il periodo in cui purtroppo si concentra il maggior numero di truffe, in particolare a danno delle persone anziane che non hanno abbandonato la città. E così ci si ritrova a dover pagare diverse centinaia di euro soltanto per la sostituzione di un tubo o di una serratura. Ma cosa bisogna fare in casi come questi, quando ci si trova davanti a richieste economiche esagerate? Innanzitutto, è sempre bene richiedere il preventivo prima della prestazione. Se il prezzo è esagerato, bisogna contattare l'associazione di riferimento della categoria in questione e segnalare l'accaduto. In ogni caso, se la riparazione non può essere rimandata, bisogna sempre tenere la ricevuta. Inutile invece intavolare trattative sul prezzo. Per limitare episodi di questo tipo, è possibile ad esempio rivolgersi direttamente alle associazioni di categoria per sapere se l'attività che abbiamo contattato per una riparazione è iscritta all'albo e per sapere se è adeguata o meno. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre testimonianze, i vostri racconti. Vi sarà capitato qualche volta magari di subire, insomma, un piccolo incidente domestico, un danno della vostra abitazione in un periodo in cui trovare l'artigiano che potesse, proprio il caso di dirlo, correre ai ripari era un po' più difficile? Cosa vi è successo? Avete dovuto intavolare, come dicevamo anche nella nostra scheda, una trattativa dura, serrata, per stabilire il prezzo giusto per questo intervento? E allora il numero verde, ve l'ho ricordato, ci potete anche scrivere al 349-238-6666. CNA di Roma, Lorenzo Tagliavanti, ancora buongiorno. Anche quest'anno proponete alla città e alla provincia artigiani aperti ad agosto? Sì, anche perché quando parliamo di Roma, parliamo di una grande area metropolitana che ha 3 milioni di abitanti. Circa il 50% andranno in ferie nel mese d'agosto, quindi vuol dire che rimarrà 1,5 milioni di persone a Roma e provincia, e in più i turisti che in genere affollano nel mese di agosto numerosi la nostra città. Allora, e poi le attività commerciali che magari lavorano a pieno ritmo. Esatto. Quindi noi non possiamo, l'artigianato non può lasciare sguarnita, diciamo, un'area così densamente popolata anche nel mese d'agosto. Qual è il problema che il cittadino ha? Che normalmente nei mesi normali tutti hanno l'idraulico di fiducia, il fabbro di fiducia, l'autoriparatore, ma non sempre hanno le ferie coordinate con il certo, proprio autoriparatore. Questi poveretti devono andare quindi in vacanza. Quindi si può creare una situazione di emergenza, però nell'emergenza deve essere un'emergenza tale che si va non verso le avventure. Noi sappiamo che esistono tante società che si pubblicizzano, che in realtà nascondono dietro qualche spiacevole sorpresa. Infatti, per come ovviare per esempio, questo elemento, noi abbiamo chiesto a 400 nostri artigiani di segnalarci il periodo di apertura d'agosto. E quindi chiamiamola così, di reperibilità. Di reperibilità per il mese di agosto. Questo lo facciamo in collaborazione col Comune di Roma, quindi mettiamo l'elenco all'interno del sito sia del Comune di Roma sia della CNA, che è cnapmi.com. Però il metodo più facile per poter accedere è quello di telefonare al numero verde del Comune di Roma, che è semplicissimo, perché ce lo dia, perché mi riferisco soprattutto agli anziani, naturalmente, che esatto, magari su internet non possono andare. 060606, che è il numero del Comune di Roma. Lì c'è una signorina, uno gli dice che ha bisogno di quell'attività, quindi è la stessa La persona che risponde a questo la numero che risponde individua e dà il numero di telefono all'impresa. Qual è al cittadino che richiede l'impresa, qual è l'importanza? Che non deve fare una delle cose che voi avete consigliato, vedere se sono iscritte all'albo, se sono imprese regolari, eccetera, perché queste sono state fatte precedentemente, certo, dall'associazione, quindi vuol dire che quel numero sicuramente corrisponde ad un'impresa artigiana che ha tutte le qualifiche e tutte le autorizzazioni. E che detto poi soprattutto questo, magari non ci presenta una parcella a sorpresa. Voglio affrontarlo dopo questo aspetto, Tagliavanti. Mi dia solo un attimo di tempo perché vorrei anche far intervenire prima della pausa il nostro amico Luca Falco, non per togliere nulla a Tagliavanti, Luca Falco, ma lo disturbo davvero frequentemente. Anche Confartigianato ha messo in campo tante iniziative su scala territoriale, ne ho trovata una molto carina a Ravenna, cioè estate sicura per gli automobilisti fino al 30 settembre, in sostanza ci sono tutti gli operatori del settore appunto messi a disposizione dall'associazione. Questa la cosa che mi ha colpito capito che questa è la 30ª edizione consecutiva in questa categoria, insomma, aperta per ferie. Poi ne citerò anche altre. Detto questo, Falco, allora, prima di trovarci in piena emergenza, cosa si può fare per se ovviamente sappiamo già a luglio che dal 10 al 30 agosto il nostro elettricista di fiducia sarà in ferie, cosa possiamo fare prima per non trovarci impreparati di fronte ad un'emergenza estiva? Allora, le regole che avete dato sino adesso sono perfette, sono le stesse che avrei dato io, che mi ero preparato una lista. Ah, la prossima volta faccio da sola. No, guardi, è spettacolare proprio, complimenti perché avete fatto un ottimo lavoro. Io aggiungerei un altro consiglio, intanto chiamare magari adesso in questi periodi l'associazione di categoria, anche quelle dei consumatori, perché molte convenzioni o accordi vengono fatti con i comuni su tutto il territorio nazionale, sia con Partigianato che CNA, e anche con le associazioni dei consumatori, per cui con l'associazione dei consumatori chiamarla e coinvolgerli per verificare se hanno anche loro le liste degli artigiani aperti ad agosto. Un consiglio importante che mi sento di dare è questo, essendo che spesso il lavoro che noi portiamo avanti un servizio nei confronti del nostro cliente, prima di andare in ferie di solito consigliamo noi un nominativo o due nominativi da poter contattare in nostra assenza, quindi se non è stato fatto o comunque magari non c'è stata l'occasione di sentire il proprio manutentore o installatore di fiducia piuttosto che fabbro, piuttosto che falegname, chiamiamolo adesso prima che vada in ferie, proprio per farci dare da lui dei nominativi di colleghi al quale possiamo affidarci, perché spesso noi artigiani collaboriamo tra di noi anche, per cui abbiamo la possibilità di dare dei nominativi sui quali possiamo tranquillamente fidarci ed essere Insomma, io ti lascio in custodia, male. Ti lascio in custodia i miei clienti ad agosto, tu lasciami i tuoi a Natale, questo un po' potrebbe essere lo scambio. Spesso si fa così, poi noi alcuni hanno delle aziende strutturate in modo che comunque qualcuno reperibile ci sia sempre, certo, però non è sempre così, per cui altra cosa importante, a volte le pagine gialle piuttosto che le pagine utili sono uno strumento importante che servono a tutti e l'ho utilizzata anche io per trovare un albergo, quindi va benissimo. No, ma non era per demonizzare lo strumento, era per fare un esempio. No, poteva anche essere utilizzato internet come un giornale qualsiasi. Esatto. Però diventa anche importante spesso quando si ha un apparecchio guasto, come per esempio un condizionatore, esistono dei numeri verdi dove noi centri assistenza magari diamo i riferimenti con i periodi di ferie, per cui chiamando il numero verde di riferimento dell'azienda, l'azienda stessa sarà anche in grado di dire guardi il suo centro assistenza è in ferie ma può intervenire quello di questo territorio. Ecco, poi magari chiediamo anche quanto è corretto che mi chieda questa persona che viene a farmi assistenza in questo frangente. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, che oggi torna ad affrontare un tema stagionale, perché l'abbiamo fatto anche l'anno scorso e insomma in vista dell'estate ci piace mettere in campo un po' tutti quei suggerimenti utili che possono così essere adottati dalle persone, dai cittadini, quando in agosto si ritrovano ad affrontare disavventure piuttosto spiacevoli come l'impianto elettrico che salta, il ladro che tenta di scassinare l'aeroporto o banalmente la serratura che si blocca, il condizionatore che si rompe, la lavatrice che perde. Che facciamo? Chi chiamiamo? siamo, quale artigiano. Intanto cerchiamo di capire, ci hanno già dato dei suggerimenti molto utili Luca Falco di Confartigianato e Lorenzo Tagliavanti della CNA di Roma. Mettiamo intanto magari nel portafoglio, ben in vista a casa nostra, un elenco di numeri telefonici da poter comporre in questo frangente, nel frangente dell'emergenza. Cerchiamo di capire quali artigiani sono disponibili in questo periodo, anche perché le organizzazioni di categoria organizzano quasi su tutto il territorio questi servizi appunto d'estate. Detto questo, poi però molti ascoltatori giustamente sollevano anche un altro problema, però quando uno dicono si trova in una situazione di emergenza non ha mica tutta questa lucidità. Se la casa è allagata dalla lavatrice, qua c'è ben poco da fare a trovare subito il numero di telefono, ma insomma qualche cosina si può anche fare. Detto questo, vi faccio sentire la testimonianza di Gennaro da Reggio Emilia, poi continuiamo il nostro vademecum e le nostre istruzioni per l'uso appunto per queste situazioni. Gennaro, a lei non è capitata ad agosto, è capitata a luglio, però insomma è una vicenda che ci può essere utile da esaminare. Gennaro, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, agli ospiti e a tutti gli ascoltatori. Sì, a me è capitata questa cosa, che in pratica poco meno di 2 settimane fa mi si è rotta la lavatrice e niente, ho chiamato il centro assistenza trovato su internet e quindi niente, sono venuti, questa persona qua, che poi tra le altre cose poi ho scoperto che ha anche la sede legale nella provincia qui di Reggio Emilia, in tutti i casi mi ha chiesto mi ha detto che la riparazione costava 351 euro, che c'era da sostituire il motore. Non mi sono fidato perché non mi è piaciuta questa cosa e niente, gli ho pagato la chiamata sui 40 euro, non voleva neanche farmi la ricevuta. Certamente. Vabbè. Va bene, è andata così. Sono andato col motore che poi ho smontato io, Stavo ridendo, Gennaro, perché se capitasse a me una situazione voglio vedere dove sbatto la testa con la lavatrice. Ecco, ci sbatto proprio la testa io direttamente. No, ma insomma, ha smontato il motore. Me la cavo e quindi niente, non faccio perdere tempo. Sono andato a Ricambi dove vendono i pezzi delle lavatrici. E questo qua mi ha detto: no, guarda, devi chiamare secondo me uno che ti do io, perché secondo me non è neanche il motore, li metti tutto a posto perché probabilmente lì è il timer. È venuto successivamente questa persona qua, ha detto sì, il problema è il timer, si è caricato la lavatrice, l'ha portata via, quando me l'ha riportata funzionante, anzi meglio di quanto è uscita dalla fabbrica perché sono cambiati anche i programmi, morale della favola, anziché di spendere 351 euro ne ho spesi solamente 180. E la chiamata? No, è stato tutto compreso, anche il trasporto? Tutto compreso. Con ricevuta, la attenzione, metà. Con ricevuta e per qualunque problema la disponibilità. Se ci sono dei problemi, loro sono sempre reperibili, abitano qui vicino. Va bene, Gennaro, la ringrazio, dalla sua testimonianza prendo tanti spunti. Allora, è chiaro, un po' come per tutte le cose, bisognerebbe poter essere in grado di fare dei preventivi, sentire più persone, ma giustamente stiamo parlando di circostanze d'emergenza, situazioni di emergenza, e chi ha tempo di fare preventivi? Tagliavanti, che cosa ci suggerisce tutto il caso che ci ha raccontato Gennaro da Reggio Emilia? Da 180 euro con lavatrice portata via e riportata a casa, 350 più 40 di chiamata senza fattura, mi pare che ci sia una bella differenza di comportamento. Sì, c'è stato un servizio di un artigiano professionale e invece un altro servizio, diciamo, meno professionale. In questi casi è chiaro che in tutte le prestazioni una cosa importante è che il cliente utilizzi bene il suo potere. E quindi il primo elemento del potere del cliente che sta chiedendo una prestazione è quello di pretendere, diciamo, un preventivo, a dire, se paga deve sempre avere descritta la prestazione e l'importo. È chiaro che quando vai in aspetti tecnici il cliente non è tenuto ad conoscere tutti gli aspetti tecnici di cose che sono abbastanza complesse. Però indipendentemente da come vada poi la prestazione finale, avere una fattura dove la prestazione è stata ben descritta permette la possibilità di potersi rivalere, quindi è importante, quindi se paga deve avere una ricevuta ed una descrizione abbastanza dettagliata del lavoro che è stato fatto. Anche perché, tagli avanti, se fosse capitata a me questa persona, ma io come potevo essere in grado di dirgli: guarda, secondo me non è il motore ma la centralina, il timer, e quindi non mi fido, secondo me è un danno per il quale posso spendere meno, per cui qua cioè io gli avrei fatto cambiare il motore, magari mi ritrovavo con lo stesso problema dopo il giorno dopo non funzionava lo stesso. Questo è il tipico problema del cosiddetto pronto intervento. Nel senso, per questo conviene sempre rivolgersi sempre allo stesso tecnico, magari al tecnico del condominio, al tecnico di fiducia che già è stato sperimentato, quello di zona, l'artigiano di zona che probabilmente non ha nessun interesse di fare brutta figura e che la gente parli male di lui anche in termini commerciali. Per questo, diciamo, quindi in tempi normali conviene che uno queste funzioni le abbia. Però qui parliamo dell'emergenza, vuol dire noi dobbiamo ridurre l'emergenza ad agosto. Per questo è importante iniziativa tipo artigiani ad agosto, perché nel momento in cui un artigiano aderisce alla campagna di artigiani ad agosto, aderisce anche, diciamo, ad una metodologia, un codice etico, sicuramente quello è un artigiano, quindi ha una propria sede, in caso di contenzioso è comunque sia diciamo, una persona che non è che sparisce, eccetera. Però hai ridotto notevolmente i rischi. Il problema non è abolire il rischio, ma ridurlo notevolmente attraverso una serie di comportamenti che però sono in capo al consumatore. Il consumatore deve essere un consumatore, diciamo, moderno, avvertito. Certo, poi le voglio fare un altro caso, tagli avanti, glielo faccio dopo. Se abbiamo il diritto di fronte ad una parcella del tutto improponibile, anche di non pagare, di riservarci il diritto magari a non farlo, a farlo successivamente. Poi le spiego perché le faccio questa considerazione. Mi baso su un caso concreto che è capitato ad una coppia di miei amici. Luca Falco, volevo chiederle, 40 euro di chiamata, io non tanto per soffermarmi sulla cifra, perché magari so già che lei mi obietterà, magari questo artigiano si trovava in una via di, faccio Milano, non mi ricordo dove ci chiamava, da Reggio Emilia, si trovava in una via di Reggio Emilia e ha dovuto andare dall'altra parte della città per assistere questa persona e poi non ha fatto il lavoro, ma è una cifra corretta per non aver neanche fatto appunto il lavoro. Magari, ecco, io l'avrei data più volentieri all'altro artigiano che si è portato via la lavatrice, anche perché se no questi signori qua fanno, vanno in giro per 5 case nel corso di una giornata, propongono un preventivo per un lavoro del tutto fuori dal mondo tipo questo, 350 euro, e in 5 case prendono ogni volta 40 euro a nero, e qua abbiamo fatto giornata senza aver fatto niente, cioè No, è assurdo. È assurdo. Allora, c'è un fatto, di solito quello che consiglio io anche ai miei clienti quando chiamano, quelli che non sono abituati a lavorare con noi, noi diciamo sempre qual è comunque la nostra tariffa per andare lì, effettuare un sopralluogo e un preventivo. Il preventivo e il sopralluogo comunque noi si fa sempre, quantomeno il preventivo, subito a voce, perché telefonica il primo contatto, poi comunque è buona norma fare un preventivo scritto. Col preventivo scritto poi il cliente accetta o meno se fare il lavoro, e spesso a seconda del tipo di lavoro, ma poi va nella contrattazione personale e nell'organizzazione aziendale, a volte la chiamata viene scontata in parte anche sul lavoro svolto dopo. Però la serietà sta nel proporre la soluzione al problema, non nel cercare di fregare il cliente, perché una persona può fregare la sfortuna di noi artigiani, che se noi lavoriamo male la prima volta, essendo che viviamo molto spesso col passaparola, continuamente, infatti, se noi perderemo il lavoro e perderemo la fiducia del cliente. Per cui io faccio, se posso, fare un grosso appello alla serietà a tutti i colleghi, anche a quelli che si sentono un pochino più furbi, perché danneggiano tutti quanti. Oltretutto noi artigiani esistiamo per dare un servizio ai nostri vicini di casa spesso, per cui questa è la nostra chiamiamola vocazione, forse, magari sono sempre un po' troppo romantico. No, ma io infatti, guardi, come però mi capita spesso di dire, quando io invito i rappresentanti delle categorie e di ogni categoria, io non metto mai in dubbio la buona fede di tutti coloro che ci raccontano come dovrebbero andare le cose. Il tema è che poi appunto la mela marcia della categoria, e in tante categorie ce ne sono tante, rovinano la reputazione di tutti. Infatti ci sono molti ascoltatori che ovviamente sollevano anche la questione, guardate che ci sono anche persone nostre, no, sono soprattutto persone oneste, però ad agosto anche queste vanno in ferie e noi invece ci troviamo ad avere a che fare appunto con il furbetto del quartierino di turno. Una cosa importante che è stato detto, la ricevuta fiscale, esatto, il cliente la deve richiedere sempre, va sempre rilasciata assolutamente, non si può non rilasciare la ricevuta fiscale, prima per una questione di evasione fiscale che è fondamentale. Secondo, perché la garanzia del cittadino, cioè una ricevuta fiscale garantisce il cittadino del lavoro svolto. Senta, no, per avere invece la questione della chiamata, telefonata fatta al professionista che ci serve, l'idraulico, l'elettricista, chiunque sia, chiediamo prima di farlo partire quanto vuole per la chiamata. Va chiesto assolutamente sempre prima, cioè questo è importante, perché magari ci sono aziende organizzate, strutturate in determinati modi per cui hanno già un operaio in zona, per cui per scelte commerciali decidono che la chiamata non se la fanno pagare. Cioè, bisogna sempre informarsi. Benissimo. Non tutti i cittadini lavoriamo nello stesso modo. Ma ci mancherebbe altro. Ciao, sono Silvia. Mi hanno chiesto 50 euro di uscita in nero, ma lì anche mi fanno ridere. Cioè, vorrei proprio sentire se lo chiedono al telefono. Io arrivo, l'uscita è 50 euro e naturalmente non vi rilascio la fattura. Beh, bravi. E poi c'era solo il tubo di scarico un po' intasato. Avrei sbattuto la testa contro il muro. Silvia, si figuri, avrei fatto la stessa cosa. Periodo di Pasqua 2006, ci racconta Marco da Pisa, mi si rompe lo scarico della cucina. Per tagliare un tubo e montare uno scarico di plastica, 444 euro con ricevuta. E meno male. Se avessi portato la ricevuta all'Associazione dei Consumatori, cosa avrei ottenuto? Stamattina nessuno ha citato le associazioni dei consumatori, Marco, ma stiamo parlando delle associazioni di categoria, i rappresentanti di questi professionisti che ci danno i suggerimenti e tutte le indicazioni utili per poter trattare, se è il caso, con queste persone come doverci comportare in situazioni di emergenza, perché ad agosto purtroppo ne capitano, siccome piove sempre sul bagnato, queste situazioni capitano sempre quando non ce lo aspettiamo. Detto questo, no, adesso sentiamo il caso della caldaia di Giuseppe da Sassari, poi torno da Tagliavanti. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, volevo segnalare un fatto che mi è accaduto nell'aprile scorso. Quindi io non eravamo ad agosto, non era una situazione di emergenza, Giuseppe, no, questo dobbiamo specificarlo. Non era una situazione di emergenza. Diciamo che io sono andato ad acquistare una caldaia presso una ditta e la ditta mi ha dato questo nominativo, l'unico che aveva, quindi non avevo scelta per quel tipo di caldaia. Questa persona è venuta, dopo che ha montato la caldaia mi ha chiesto 600 euro, la bellezza di 600 euro. Ha lavorato circa 4 ore, 600 euro. Lei non le aveva chiesto prima, Giuseppe, quanto avrebbe speso? No, ripeto, non avevo scelta, in quanto la ditta che mi ha venduto la caldaia mi ha dato questo nominativo dicendomi che non c'era nessun altro. Boh, d'accordo. Vabbè, no, ma Giuseppe, guardi, io non voglio fare la sapientona perché come lei e come tutti quelli che ci scrivono e ci ascoltano sono una persona che incappa in questi problemi esattamente come succede a lei. Detto questo, Falco, allora mi spieghi un po', per montare una caldaia praticamente il costo è identico al prezzo della caldaia? Cioè, se avesse... A volte a seconda del tipo di installazione. No, tra l'altro 600 euro di caldaia non mi sembra neanche un prezzo improponibile. Io una cosa che non ho capito, 600 euro è il costo del lavoro più la caldaia? Più, sì, 6 più 1.200 quindi ha speso Giuseppe, okay. Però perché dice che l'azienda gli ha praticamente non imposto ma suggerito solo quel tecnico perché non c'erano alternative. Possibile che per quella caldaia sul mercato ci fosse solo un tecnico in grado di installarla? Allora, l'installatore, allora sono cose diverse, un conto è il centro assistenza autorizzato dalla fabbrica, un conto è l'installatore. L'installatore può essere qualsiasi artigiano che abbia l'abilitazione di professionali, per cui... il signor Giuseppe poteva informarsi e chiamare qualsiasi artigiano di sua fiducia a installarlo. Fidandosi dell'installatore consigliato dal rivenditore, lui chiaramente ha dato in fiducia al suo rivenditore. Io l'unica cosa che, lo ripeto, i preventivi noi artigiani li facciamo. Chiaro, non telefonate a tutti quanti per chiedere preventivi per lavori che non farete mai, perché chiaramente per noi è un lavoro, quindi comunque... impiega del tempo, però i preventivi li facciamo, siamo contenti di farli, è comunque un servizio che diamo, ma il preventivo va sempre chiesto. Io porto i furgoni dal meccanico a riparare, comunque il meccanico di fiducia, comunque il meccanico che ci serve da più di 15 anni, noi chiediamo il preventivo, nonostante la fiducia, ma è proprio un'abitudine che dobbiamo tutti quanti prendere. E infatti poi ribadisco, poi se il caso non è urgente come Giuseppe, che magari per installare la caldaia un giorno in più poteva aspettare, è un conto. Il tema, ritorniamo sempre lì, Falco, sono le situazioni di emergenza. Se perde la lavatrice e mi ha allagato la mia casa, il piano di sotto, se devo fare un cambio, chiaramente poi chiudo tutto, blocco e magari lì non serve neanche il tecnico, però se devo risistemare la situazione il 14 agosto, quanti preventivi posso fare? Allora, guardi, noi abbiamo con la categoria dei riparatori di elettrodomestici degli accordi con la grande distribuzione sulla riparazione, per cui molto spesso quando si acquistano gli elettrodomestici dalla grande distribuzione si può anche telefonare al negozio stesso dove la si è acquistata, dove si è acquistato il bene, per richiedere il nominativo per un eventuale intervento. Per cui, a meno che questo non capiti di domenica, ma oramai anche la domenica questa grande distribuzione aperta, diventa difficile non riuscire ad avere un nominativo. Secondo me le possibilità ci sono, quasi tutti gli artigiani, ripeto, partecipiamo a iniziative per rimanere aperti. È vero che c'è il panico, è vero che io, a me si è allagata, mi vergogno di dirlo, ho provato io a riparare la lavastoviglie, io mi occupo di caldaie e climatizzatori, non lo farò mai più, mi sono allagato la casa, ho chiamato il riparatore di elettrodomestici, con calma ho chiuso il contatore del generale dell'acqua, ho limitato i danni, poi ho preso le pagine gialle, ho chiamato il centro assistenza autorizzato. Benissimo. E ho risolto il problema. Era un problema, nel senso che era un'urgenza, perché quando abbiamo l'acqua in casa... Mamma mia, perdiamo tutte le lucidità possibili. Sì. È capitato a me, quindi infatti. Benissimo. Benissimo. Allora, Stefano dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io spasso una lancia in favore di quelli onesti in questo momento. Niente, mi è capitato 2 anni fa in inverno, rimango a piedi con la lavastoviglie, come faccio? Come lo faccio? Chiamo una persona che mi avevano detto, come diceva il signore di prima, che il passaparola è il miglior viatico. Lo chiamo, viene in giornata, constata il guasto della lavastoviglie, me l'aggiusto, mi prendo un prezzo equo per l'80 euro, se ricordo bene. Va bene, buongiorno, buonasera, mi fa la ricevuta, pago e va. Dopo 2 giorni rimango a piedi un'altra volta, torno a richiamare. No, rimango a piedi con la lavastoviglie, poi è bellissima. Rimango a piedi con la lavastoviglie un'altra volta, lui viene alla serata, si monta un'altra volta la lavastoviglie davanti ai miei occhi e dice: ho capito, aveva piegato il tubo dello scarico mentre reinseriva dentro la lavastoviglie. Ah beh, cioè, quindi insomma era una cosa, un inghippo, no, che era capitato a lui facendo il lavoro la prima parte. E difatti, quando è stato il momento di chiamare, fa assolutamente nulla, è stato un errore mio, l'ho sbagliato io, non voglio nulla, non ho avuto neanche la chiamata. Benissimo Stefano, la ringrazio per questa sua volontà di spezzare una lancia nei confronti dei professionisti onesti. Io lo so benissimo che ce ne sono tanti e fanno proprio anche una gran fatica a scrollarsi di dosso la reputazione cattiva che gli altri, che altri invece contribuiscono a propagare. Lorenzo Tagliavanti, CNA di Roma. Allora, le racconto cos'è capitato a una coppia di amici: impianto elettrico in tilt una domenica di agosto, arriva al volo, chiamano sulle pagine bianche o gialle, non mi ricordo come avessero contattato quest'artigiano, un paesino in provincia di Lodi da raggiungere, un po' problematico, non mi ricordo se avessero chiamato un tecnico di Lodi o di Milano, non mi ricordo, in sostanza questo si è venuto fuori con qualcosa tipo oltre 1000 euro per aver riattivato appunto l'impianto, non ha dovuto smontare moltissimo, comunque una cifra fuori da ogni logica, da ogni ragionevolezza economica. Lui, il mio amico, abbastanza lucidamente ha preso il telefono, ha chiamato un suo amico avvocato e gli ha detto: che cosa devo fare? E lui gli ha suggerito, questo amico legale: fatti dare la fattura, tu adesso non pagare, riservati di andarla a fare entro la prossima settimana. Si può fare? Se proprio la richiesta è fuori dal mondo? Tagliavanti, mi rivolgo a lei. Guardi, lo so che lei dice, insomma, sono in difficoltà a dare una risposta di questo tipo, però... Nel senso, anche il pagamento è un elemento contrattuale, quindi diciamo uno lo dovrebbe aver definito prima, perché i termini di pagamento sono... Essendo che io lì non posso aver fatto un preventivo prima, ma a posteriori, sentendo magari due professionisti che mi dicono: guarda, questo è un lavoro per cui più di 200 euro non era possibile che ti chiedesse, adesso tra 200 e 1000, non mi ricordo, forse erano 800 euro, però è veramente una cifra assurda, ma cioè si può fare? Il problema vero è che se uno non paga comunque sta nella parte del torto, diciamo, indipendentemente dall'ammontare, per questo è importante definire bene il lavoro che è stato fatto, perché il diritto scatta nel momento in cui uno ha pagato, nel senso la possibilità di aprire un contenzioso, per questo è importante avere il preventivo prima, va a dire arriva, allora ci sono la spesa per giungere il posto, il tecnico riesce a valutare qual è l'entità del danno e a dire prima più o meno quanto sarà la spesa. Certo, però a quel punto si decide. Però in una domenica d'agosto, se salta l'impianto elettrico e mi blocca il frigorifero, mi fa marcire perché... tutto quello che c'è dentro, io come faccio a chiedere preventivi? Cioè, problema vero è questo qui, che spesso la difficoltà tecnica non è evidente a chi non è un tecnico. quindi delle cose complicate poi magari sono semplicissime a risolvere, oppure l'esatto contrario. Quindi bisogna entrare nel merito, nel merito diciamo non tutte hanno le qualifiche per poterlo fare, quindi la cosa importante però è, se si è insoddisfatti, quello di poter avere una strada per poter riaffermare la propria insoddisfazione. Quindi per questo dico la descrizione dell'elemento e comunque dare il via all'artigiano, all'intervento solo nel momento in cui si è convinti dove si sta andando, questo è l'elemento importante. Va bene, Simone da Pisa, rapidissimo che stiamo chiudendo, buongiorno, l'installatore di caldaie che ci si è già arrabbiato naturalmente perché si sente un po' preso sotto tiro. No, vabbè, allora premettendo che giustamente se ci sono delle richieste, delle cifre esagerate, cioè è normale che non va bene, però vorrei far riflettere anche gli ascoltatori, comunque tutti, che praticamente il nostro lavoro, differente da un meccanico, un parrucchiere o chiunque, non è che il cliente si libera il giorno, prende l'appuntamento e va lui a farsi fare qualcosa, siamo noi che ci dobbiamo organizzare certo. prima possibile, perché andare a casa del cliente, perché poi tutti vogliono via. Tutto subito, giusto, e quindi cioè, voglio dire, è un po' differente, non è che uno mi porta la caldaia certo. meglio, giusto, vai, ecco, è sua. Però lei, allora, il caso che ci è stato raccontato prima, Simone, io le voglio chiedere un commento su questo. Questa persona suggerisce di togliere il motore della lavatrice, non era neanche quello il danno, fa un preventivo assurdo, 350 euro, di fronte al quale il cliente dice no grazie, magari mi riservo di pensarci un attimo, però tu intanto per la chiamata devi sborsare 40 euro in nero. Allora, se questa persona utilizza questa tattica e fa un giro tra 5 clienti in una giornata, porta a casa il suo stipendio senza aver neanche lavorato. Lei capisce che di fronte a questi casi ci dobbiamo scandalizzare. Cioè, lo sappiamo tutti, il mascalzone c'è da tutte le parti. Insomma, Simone, lei va in ferie o a disposizione dei suoi clienti quest'estate? Lei va in ferie o a disposizione dei suoi clienti quest'estate? Io in ferie vado quasi mai, pochissimo, e a volte mi tocca anche ritornare nella settimana che prendo, devo ritornare ad aggiustare qualcosa. Simone, comunque grazie per la sua testimonianza. Io devo salutare Luca Falco, Lorenzo Tagliavanti, siccome devo chiudere non ho tempo di farli salutare, ma ricordo agli ascoltatori, preparatevi una lista di artigiani che possono intervenire in agosto, in modo tale insomma che intanto speriamo che non ci capiti nessuna emergenza, ma se queste capitano, qualche volta succede, naturalmente sappiamo già chi poter chiamare a farci aiutare a prezzi ragionevoli. Buona giornata a tutti, ci risentiamo domani.